Today's Dhamma talk is entitled Satipatthana Part 2, and we shall continue to explore mindfulness and the remaining hindrances. Allora, il sutra, il Dhamma talk di oggi si intitola Satipatthana numero 2, e quindi esplorerà gli ulteriori ostacoli e prima mindfulness e la consapevolezza e gli ulteriori ostacoli. Sì. And so, yesterday we started out by taking a look at mindfulness itself, and so, we also discussed to some extent the first hindrance, namely the hindrance of sense desire. Allora, ieri abbiamo preso in considerazione il primo ostacolo, in particolare ossia l'ostacolo del desiderio sensuale. Now, yesterday we said that the characteristic of mindfulness is non-superficiality, so the observing mind is sinking into the object. Its function is given as non-forgetfulness. Allora, ieri abbiamo visto che la consapevolezza è caratterizzata dal suo essere immerso nel suo stesso oggetto e dalla non dimenticanza. And suddenly then the manifestation is of two kinds, namely as confrontation, and number two as protection or guardianship. E dunque ci sono due funzioni essenziali della mindfulness, che sono la protezione o guardiania. And the first one, confrontation. E la confrontazione, lo stare di fronte a oggetti. And the proximate causes that contribute to the arising of mindfulness are number one, a strong perception of an object, and number two, the four establishments of mindfulness themselves. Allora, the proximate cause for the arising of mindfulness is of two kinds. Allora, le cause prossime del sorgere della consapevolezza sono di due tipi. A strong perception of an object. La forte percezione dell'oggetto. And secondly, the four establishments of mindfulness themselves. E come secondo, i quattro stabilimenti, le quattro costituzioni della mindfulness stessa. Now, fortunately, the qualities of mindfulness are not limited to just the ones that I mentioned, but there's many other qualities that mindfulness ideally should possess. Idealmente, fortunatamente la consapevolezza non ha soltanto queste qualità, ma ce ne sono diverse altre che la consapevolezza dovrebbe possedere. So, one additional quality of mindfulness is as immediacy. Namely, as soon as an object of observation arises, right away, without hesitating, the observing mind go towards the object. Allora, una caratteristica molto importante è l'immediatezza. Appena un oggetto sorge, la consapevolezza lo percepisce e va direttamente al suo cuore. So nothing should come in between the observing mind and the object observed. Quindi non c'è nulla in mezzo tra la consapevolezza che osserva, la mente che osserva e l'oggetto osservato. Now, somewhat similar to this aspect is the aspect of rushing towards an object. So the observing mind should be rushing towards the most predominant object. Quindi in questo caso possiamo dire che la mente si precipita verso l'oggetto predominante. And this particular aspect is known as pakkanditta pavattati in the Pali scriptural language. Never in Pali questo particolare aspetto è quello che è illustrato. Pakkanditta pavattati. Anyways, that's just for sake of completion. So, whenever an object arises, then the mind will kind of, jump towards the object. It will leap into the object. Allora, quando l'oggetto sorge, la mente salta. Nell'oggetto ci si getta dentro. Yes, and so in this case, when the mind, the observing mind is rushing towards the object, then there is no time, for any hesitation, for asking big questions: why is this object arising? How come this object is arising? Etc. Allora, quando la mente si precipita, si getta sull'oggetto, non c'è tempo per far sorgere questioni del tipo perché, per come questo oggetto è venuto fuori. And so in a traffic accident, when let's say one person has been seriously injured, then you're not going to discuss who whose fault this was, but primarily you're going to send the injured person right away to the hospital. Quando c'è un incidente stradale, non è che stiamo lì a fare questione su cosa è successo, su chi ha causato l'incidente, ma ci preoccupiamo di portare immediatamente la persona ferita all'ospedale. Now, the second among the five hindrances is that of ill will, vyapada nivarana. And when this particular hindrance arises in your stream of consciousness, then what do? You'll ask many questions. You greet this the hindrance of ill will, hi, welcome, please stay around. Or are you going to rush towards that new object and then be mindful of it right away? Il secondo ostacolo è la malevolenza. Quando sorge, che cosa facciamo? Gli diciamo ciao, come va? Sei ben arrivato? Cose di questo genere. No, dobbiamo invece gettarci subito su questo oggetto. Yes, right. And so, if we were not to act right away, if our mindfulness would be somewhat slow, then the hindrance of ill will might in no time spread and then become very difficult to work with. Allora, se non facessimo così, questo ostacolo della malevolenza avrebbe modo di consolidarsi, allora poi sarebbe molto difficile venirne a capo successivamente. Now, the arising of ill will can happen very quickly. You see some, fellow meditator taking your spot in the meditation hall, and are you going to radiate thoughts of loving kindness to the person, or are you going to get angry? Most likely, you're going to get angry. Questa malevolenza è qualcosa che viene fuori in modo incontrollato, violento. Per esempio, se entriamo nella sala di meditazione e un altro meditante ha occupato il nostro posto, rapidamente diventiamo arrabbiati. Now, at the meditation center in Lumbini, we have three cats. Two male and one female. And you can imagine already what might happen. Questo è il caso, per esempio, dei gatti di Lumbini, due maschi e una femmina, e vi potete immaginare cosa accade. And so, during the past one or two months, some heavy fights have occurred among the two male cats. Ci sono stati degli scontri tosti tra questi gatti negli ultimi mesi. Now, the older male cat every night suddenly gets locked up in our storage room. And the moment it's the door gets opened in the morning, and suddenly this cat suddenly then races into the courtyard and sees the younger male cat right away. It goes after the younger cat, and if it can, it will try to seize it and hurt it as much as possible, or inflict injury. Cioè, il gatto più anziano si era nascosto durante la notte in un certo posto, e la mattina è entrato in cortile, ha visto l'altro gatto e gli si è avventato contro e ha cercato di ferirlo pesantemente. And so just seeing the younger cat is already enough for the older cat to go after the younger cat. So there's a lot of ill will involved in this. Cioè, il gatto vecchio appena vede il giovane gli deve saltare addosso, c'è molta malevolenza. And so the same thing that may happen in our stream of consciousness when we come across some, when we see, we hear, we smell some undesirable object. Allora, la stessa cosa dovrebbe accadere nel nostro flusso di coscienza al momento in cui ci rendiamo conto che c'è qualche oggetto non desiderabile. Okay. And so, the characteristic of ill will is dosa or vyapara in the Pali scripture language is given as ferocity or savageness. Mm-hmm. La caratteristica della malevolenza è la ferocia o selvaggezza. And an illustration for this is or can be found in the text as a provoked ferocity like that of a provoked snake. E nelle scritture si dice che la ferocia di un serpente che è stato provocato. And the function of ill will or hatred is of two kinds, namely to spread or to burn up its own support. Allora, la caratteristica della malevolenza o dell'odio è quello di accendere i suoi stessi sostegni. So to spread out is meant in the sense of like a drop of poison easily spreads. È come una goccia di veleno che si sparge molto facilmente. Or some acid that you pour, let's say, over a carpet or so, which then will spread and eat up the carpet. O come un acido che si rovescia su un tappeto e rapidamente lo corrode. And so the second function of ill will is given us to burn up its own support. So it's and the own support is the mind in which it arises and the body. La seconda caratteristica è che brucia il suo supporto, quindi in questo senso il supporto è la mente e anche il corpo. And the illustration here is that of a forest fire that will burn up its own support, namely the forest. È come il fuoco che brucia una foresta e quindi brucia il suo stesso supporto, la foresta stessa. And so, as you can see from this already, the mental state of anger, the hindrance of anger, is a rather dangerous mental state. So, if we're not careful, if we're not immediately mindful of it, it can create havoc. La rabbia è un qualcosa che diventa rapidamente incontrollabile, e se non riusciamo a mettere rimedio subito diventa un disastro. And just like in the illustration of the cats from Lumbini, the older cats going after the younger cats, and cat as soon as it sees the younger cat, well, likewise, anger manifests as persecuting, wanting to inflict harm and injury on another being. Come il gatto vecchio di Lumbini, la rabbia si manifesta immediatamente come voglia di perseguitare e di infliggere tormenti e di ferire. And so, the proximate certain cause given for the arising of ill will is a ground of annoyance. E la la causa prossima del sorgere della malevolenza è un fondo di insoddisfazione, noia, qualcosa che irritazione. And so the Digha Nikaya, as an illustration, gives the following, namely the thought, he or she has done me an injury in the past, or he or she is doing me an injury, or he or she will be inflicting an injury on me. Nel Digha Nikaya si trova una sorta di inversione, per cui il momento della rabbia è il momento in cui chi è arrabbiato suppone che sia l'altro a volergli male, sia l'altro che sia pronto a dargli, a infliggergli qualcosa di male. And the second set of three reasons for the arising of anger is he or she has done, is doing, will do some harm to someone who is near and dear to me. L'idea è che quest'altro, questo preteso offendente, sia qualcuno che voglia mettere in pericolo, fare del male a qualcuno che mi è caro, che mi è vicino. So maybe our big male cat in Lumbini is sort of thinking about the younger male cat. Oh, this younger male cat has been going after the female cat, Mrs. Pukki, who's unfortunately blind. and so maybe this is already ground enough for the big cat to be dissatisfied. Quindi il gatto vecchio di Lumbini, rispetto al giovane, si pone come quello che potrebbe far male a Mrs. Pucchi, questa gatta che però purtroppo è anche cieca. And then, you know, the next three causes given, you know, for the arising of ill will is he has done, is doing, will be doing a favor to someone who is not dear to me, who is displeasing to me. Oppure chi è oggetto della rabbia viene accusato di essere pronto a fare un favore a chi non mi è caro, a chi mi dispiace. And in a wider sense we can say that basically anything will do ignite anger. In un senso più ampio possiamo dire che qualunque cosa è in grado di accendere la rabbia. So it could be greed that leads to anger, or it could be delusion that leads to anger, or it could be jealousy of another person that leads to anger, and so on and so forth. Ci sono diversi sentimenti che possono innescare la rabbia. Può essere la disillusione, la cupidigia, greed and delusion and jealousy, e la gelosia, and of course there are many other things, e molti altri. And conflicts can arise because of sometimes really minor instances, like the way, the style another person is doing something, like the way or the style a person is cutting the bread for breakfast. Mm-hmm. Ci possono essere infinite cose che fanno scattare la rabbia, anche semplicemente il fatto di come una persona taglia il pane al breakfast. And this in itself may already be enough to get angry with a certain person, and then seeing his or her negative side, shortcomings, pointing out those shortcomings over and over again. Ci sono insomma tanti modi per diventare arrabbiati. Basta vedere la persona che è oggetto della nostra rabbia per mettere subito il dito su quelli che sono i suoi, insomma, shortcomings, in questo caso difetti. Now, if one keeps looking at the shortcomings of another person and keeps pointing those out and keeps announcing those over the community radio, then what do you think? Will the ill will in this person decrease or increase? Se qualcuno continua a mettere il dito sui difetti di qualcun altro, se lo mette come un argomento rilevante sulla radio della comunità, che cosa ne penseremo? Che tipo di malevolenza? Right. So, if mindfulness is not present in these cases, when coming across the shortcoming of another person, then it will lead to, or it will increase the ill will more and more. Se la consapevolezza non interviene rapidamente, la malevolenza crescerà sempre di più. Now, on the other hand, when one should be applying mindfulness, well, as immediately as possible, and rushing towards ill will when it arises in the mind on every occasion in order to weaken it overall. Quindi la questione è di riuscire a andare rapidamente sulla rabbia e riuscire a indebolirla. Now, other ways of dealing with ill will or with anger apart from mindfulness are, of course, seeing the strong points in others, radiating loving kindness to them. Ci sono altri modi, ovviamente, oltre alla mindfulness, per contrastare la rabbia. Per esempio, c'è il vedere anche l'altro come qualcosa di buono e irradiare nei suoi confronti la gentilezza amorevole. And one could also bring one sense to or some sense to one's own mind by reflecting on the futility of engaging in ill will, namely that acting on ill will in the end will bring harm to oneself first, even before harm is done to another person. Bisogna riflettere sulla futilità della malevolenza e rendersi conto di quanto sia dannosa per noi stessi prima ancora che per l'altro. Now, the instruction from the Satipatthana Sutta for the five hindrances was given as follows, namely, when ill will is present, one knows that it is present. When it is absent, one knows that it is absent. Nel Satipatthana Sutta le istruzioni sono di rendersi conto di quando la malevolenza è presente e di quando non è presente. And furthermore, one knows how unarisen ill will can arise, and one knows how to remove, one knows the conditions and to remove the ill will. E quindi bisogna rendersi conto della ragione per cui la malevolenza emerge e dei modi per rimuoverla. Yeah. And finally, one also knows how to prevent the future arising of this ill will. E anche trovare i modi per prevenirla in futuro. And this means totally eradicating the ill will, and this happens through the attainment of the third path. L'obiettivo è sradicare completamente la malevolenza, e questa è possibile attraverso il terzo sentiero. You said third path. The third path, right. Terzo sentiero. Now, the qualities of mindfulness are not limited to immediacy and rushing towards an object, but also it covers things like firmly grasping an object. Allora, le caratteristiche della della consapevolezza non sono solo l'immediatezza e il precipitarsi rapidamente su un oggetto, ma è anche quella di afferrare l'oggetto. Now, so whenever an object has arisen, then we try to, with our mind, we try to grasp it, we try to hold it, so that we can observe it properly. Appena un oggetto sorge nella mente, dobbiamo afferrarlo e, per vederlo in modo appropriato. And certainly some objects really behave like or are like well, an eel that one is trying to catch. An eel, a fish that is very slimy. You try to catch it, and alcuni oggetti sono come un'anguilla che sfugge rapidamente. Now, a mental state that is somewhat like an eel is that of sloth and torpor. Uno degli ostacoli che ci fa scappare via l'oggetto come un'anguilla è la sonnolenza o torpore. And so, this particular mental state or hindrance is giving the meditators much trouble. È un ostacolo o uno stato mentale che dà molti problemi al meditante. And certainly when sloth and torpor is present, then it will be, and then the mind certainly simply lacks energy, and it doesn't have the capacity to clearly observe an object. Le sonnolenze e torpore si traducono in una mancanza di energia che impedisce di guardare effettivamente l'oggetto. Now, this hindrance of sloth and torpor actually consists of two mental states which are slightly different from one another. Sonnolenza e torpore sono due stati mentali tra loro differenti. Now, in the case of sloth, its characteristic is a lack of driving power. Il primo, la sonnolenza, è la mancanza di un potere di guida, di una forza che guida. And so if previously one had a fair amount of mental and certainly physical energy, then it is the function of this sloth to dispel that energy. Quindi manca l'energia e questa sonnolenza è il modo per far venir meno l'energia. And so meditators usually experience this sloth as a sinking of the mind, literally sinking of the mind. In genere la sonnolenza viene sperimentata come un affondamento della mente. And the mind sinks to a less active state, it sinks to a more lethargic state. La mente affonda in uno stato letargico. Now, the proximate cause that leads to the arising of sloth and torpor is unwise attention to boredom, drowsiness, and sluggishness of mind, etc. Thinking that when these states arise, okay, never mind, that's all right, just let it be. Le cause scatenanti sono tutta collegata alla mancanza di attenzione alla noia, alla disaffezione, al fastidio, il meditante in questo caso dice, beh, insomma, non fa niente, lasciamo correre. And so modern expressions for this sloth would be laziness, would be idleness. Le espressioni moderne per sonnolenza potrebbero essere la pigrizia o l'indolenza. A state of having no energy. Ossia stati in cui non si ha energia. Now, then on the other hand, we have torpor, which is known in the Pali language as torpore. Sorry, as nida. il torpore in Pali è detto mida. Right. And so this is defined as a more morbid state of the mind. È uno stato più morbido della mente. And its characteristic is that now an unwieldiness. So it's difficult to work with the mind. È uno stato che rende difficile il lavorare con la mente. And its function is to smother, so to kind of suppress what is there. La sua caratteristica è quello di sopprimere, di rendere. That's the function. La sua funzione è quella di sopprimere ciò che sta lì. Yes. And this maida or torpor manifests as tiredness, as exhaustion, as drooping. Quindi questo mida torpore si manifesta come sentirsi esausti, sentirsi sfiniti. And lethargy would be one modern way of expressing it. Si tratta in sostanza, in termini moderni, di uno stato letargico. A state of being inactive. Uno stato di essere inattivo. And the Venerable Sadhu Pandita compares a mind that is overcome by sloth and torpor with a stick of butter that put into a fridge and then congeals and becomes rather hard and difficult to work with. Il Venerabile Upandita paragona la mente sopraffatta dallo stato letargico a un bastoncino di burro che viene messo in frigo e quindi diventa non maneggiabile, non tagliabile. And so the mind, when overcome by sloth and torpor, it loses its energy and kind of, well, it becomes hard, it congeals, it solidifies. La mente che va incontro a questi ostacoli si congela, diventa dura, si solidifica. Now, when this sloth and torpor has arisen in our stream of consciousness, then we need to apply mindfulness right away, and we need to try to firmly grasp this mental state. Appena questo stato mentale si manifesta, dobbiamo applicare la consapevolezza e dobbiamo afferrarlo. And causes that have been given by the Buddha for the arising of the hindrance of sloth and torpor are discontent, so being dissatisfied with a certain situation, and then furthermore boredom, and then drowsiness caused by overeating. Secondo il Buddha, le cause del torpore sono la scontentezza, boredom, la noia, and suddenly drowsiness owing to overeating. E la pesantezza dovuta al troppo cibo. And a depressed state of mind. E uno stato depressivo della mente. And we can add weak effort. E possiamo aggiungere anche lo sforzo debole. So, these are different conditions that might lead to the arising of sloth and torpor. And so when these conditions are present, then we need to be careful and we need to be on guard and try to prevent sloth and torpor from arising in the first place. Quando se sentiamo che ci sono in ballo queste cause, dobbiamo essere molto attenti, stare in guardia e evitare il sorgere di questi ostacoli. Now, the instruction from the Satipatthana Sutta for the hindrance of sloth and torpor is basically the same, namely if it's present, then one needs to know that it is present. When it's absent, one needs to know that it is absent. Ora, nel Satipatthana Sutta le indicazioni sono sapere quando è presente e sapere quando non è presente. And one should also know the conditions that lead to the arising of sloth and torpor. E bisognerebbe sapere quali sono le condizioni che conducono al sorgere di questo ostacolo. And so overeating would be one such condition. Per esempio, l'eccesso di cibo può essere una di queste condizioni. Or in the morning around 4 o'clock when the bell goes and one lies in bed and it's so nice and comfortable there, then one decides getting up is not for me, and one rolls over and sleeps on for another half hour. E come alle 4 del mattino che sono alla sveglia, stiamo bene nel letto e ci giriamo dall'altra parte per dormire un'altra mezz'ora. Or if during the daytime when one is meditating together with the others, then in the midst of the sitting one just had enough of it, one decides to go to get up, to go back to one's room, or to take a nap, this also will contribute to the arising of sloth and torpor. Anche quando a metà della sessione ci alziamo, andiamo a fare un sonnellino in stanza, anche questo contribuisce al sorgere di questo ostacolo. And the Satipatthana instruction then also says one should know the conditions of the ways how to remove sloth and torpor once it has arisen. E nel Satipatthana Sutta si parla dei modi in cui si possono rimuovere le condizioni di questo ostacolo una volta che si sia manifestato. And among those conditions that lead to the removal of sloth and torpor, we have as number one mindfulness itself. Il primo rimedio è la consapevolezza stessa. And then secondly, increasing one's effort. Il secondo è accrescere lo sforzo. Denourishing any kind of thought that is geared towards sloth and torpor, such as let's stay in bed for another half an hour. Far mancare il nutrimento alle tendenze che accrescono questo ostacolo, come per esempio stare a letto un'altra mezz'ora. And furthermore, what you could do is change the posture. So if much sleepiness is occurring during the sitting posture, then simply get up and go outside, do some walking meditation. So you're changing the posture. In quel caso è importante cambiare postura, per esempio alzarsi e fare un po' di meditazione camminata fuori della sala di meditazione. Or another way of dealing with the hindrance of sloth and torpor would simply be to go outside and be outside. Oppure un altro modo è di andare fuori e essere fuori, stare fuori. And there's a whole range of other ways of dealing with sloth and torpor, but we don't have the time to go into them. It's a pity. it's a pity because this is Inesperatamente non abbiamo tempo per illustrare altri rimedi a questo ostacolo. Oh, perché well, then I'll give you one almeno one point. Namely, and this is well known. Apparently, an American Vipassana teacher by the name of Jack Kornfield, when in his young days, which is many years ago, decades ago, was practicing in Asia, in particular in Thailand, with Achan or under Achan Cha, Venerable Achan Cha, a famous meditation teacher. And Jack Kornfield apparently was suffering from much sloth and torpor, and then Achan Cha recommended that he sit on the edge of the well, and the well was bleeding. So Jack Kornfield era discepolo di Achan Cha e soffriva molto di sloth and torpor. Allora il maestro lo metteva a meditare sul bordo del pozzo, a rischio quindi di caduta nel medesimo. So here we could do something similar. Well, there's that edge there. Sit on there. Si potrebbe mettere sul bordo qui fuori. Or maybe that may be more secure in the meditation hall, simply get up and do standing meditation with eyes closed for something like 15 to 20 minutes. And in standing meditation, there's always the danger of what? Falling over. Of falling over. There you go. And this will activate your mind. Un altro mezzo è mettersi in piedi, restare in piedi per un quarto d'ora, 20 minuti, in modo di essere esposti al rischio di cadere. Or, otherwise, the Buddha recommended, you can pull your earlobes And so apparently this has an awakening effect on the mind. Il Buddha raccomandava di tirarsi il lobo dell'orecchio. Or again, as another possibility, to sprinkle some cold water into the face. O schizzarsi un po' di acqua fredda in faccia. Or if this doesn't, or if this is not enough, well then take a shower with cold water. Oppure andare a fare una bella doccia fredda. Or otherwise, still another method is if you've memorized some poems or some Dhammapada verses or whatever, then mentally recite those. Try to remember those and then recite those without disturbing the other meditators. Oppure recitare mentalmente poesia o sutra senza disturbare gli altri. Now, the only way to totally get rid of sloth and torpor is by what? Is to do what? Qual è l'unico, il vero mezzo per sbarazzarsi di sloth and torpor? The path, yes. But there are four paths, so which one? The first path? No. So not the first path, correct? Ah, the fourth one. So sloth and torpor is a mental defilement, or these are two mental defilements that are so deeply instilled in the mind that they cannot be eradicated by the attainment of the first path, second path, and third path. It takes the most powerful attainment, namely the fourth attainment, to totally remove sloth and torpor from the mind. So we've got much work to do. Dobbiamo ricorrere al quarto sentiero per rimuovere lo sloth and torpor, perché gli inquinamenti mentali sono talmente forti che i primi tre sentieri non sono sufficienti. However, even though the fourth path, of course, is far away, but we can already start now by being really, by making effort from moment to moment to moment to moment. Just like the mindfulness builds moment by moment, so too the effort builds moment by moment. Comunque, lo sforzo che dobbiamo fare è quello che da fare subito adesso, è di cominciare a attivare la consapevolezza momento per momento. And this much can be said: in the course of intensive meditation practice, we really learn to exert more effort. Nei ritiri intensivi lunghi impariamo veramente a sviluppare lo sforzo. And so, ideally, the effort has to be there, as mentioned just a few moments ago, from moment to moment. And this takes a lot of alertness and being with what is happening. Cioè lo sforzo che richiede lo stare molto svegli e di essere consapevoli di ciò che accade. Oh, for our daily life, our normal work, well, there are break periods in between, there's times when we kind of can slacken off and no one will bother, but not so during intensive practice. Nella vita normale ci sono dei momenti di buco, diciamo, in cui non si dà fastidio a nessuno a sospendere, però invece questo non deve accadere nei ritiri intensivi. Now, some meditators have remarked about intensive meditation practice, that this is the most the most difficult thing they've ever done in life. Alcuni meditanti dicono che è la cosa più difficile che hanno mai fatto nella loro vita. And now, to balance certain things out, what we need is not some type of an extreme effort, but we need balanced effort. So, not overdoing it in any way. Comunque, la questione non è strafare, ma fare le cose in modo equilibrato. Now, another hindrance is that of restlessness and remorse, udicca and kukuccha, and this too we need to address. And much restlessness may arise in the course of a day, and when mindfulness is not continuous, then we don't notice it. But when our mindfulness is continuous, then then we're more aware of it. Un altro ostacolo, anzi veramente il Venerabile ha citato insieme due ostacoli che sarebbero l'irrequietezza e il rimorso. Poi però ha sottolineato soprattutto l'irrequietezza, restlessness. And then the continuity of mindfulness is very important. Rispetto alla quale è molto importante che ci sia continuità della consapevolezza. So, continuity of mindfulness is another quality that our mindfulness should possess. La continuità è un'altra qualità importante che la consapevolezza dovrebbe possedere. And this continuity is necessary not only towards restlessness and remorse, but also towards all other predominant objects. La continuità è importante non solo rispetto a questi ostacoli, ma a tutti tutti gli oggetti predominanti che sorgono nella mente. Now, restlessness usually is of two kinds, namely mental restlessness and then secondly physical restlessness. Now, mental restlessness is the inability of the mind to stay on one object for a longer period of time. Allora, ci sono due tipi di irrequietezza, una mentale e una fisica. Quella mentale riguarda l'incapacità di stare fermi su un oggetto per un certo tempo. And wandering mind is one way this restlessness might manifest. E la mente che divaga è tipicamente una mente irrequieta. And when this restlessness, mental restlessness is there, and then there's much activity in the mind, there's much unsteadiness in the mind. Quando c'è irrequietezza vuol dire che c'è attività, c'è una mente non ferma, non stabile, non solida. And so, as for the physical restlessness, well, it manifests as the inability to sit still. A meditator will be fidgeting with his hands or feet maybe, or opening the eyes, may want to check the time, may want to see what the other meditators are doing, whether they're still here or not, stuff like that. Insomma, l'irrequietezza si manifesta in mille modi, aprendo gli occhi, guardando l'orologio, vedendo gli altri che cosa fanno e così via. and so, you know, maybe, you know, some, you know, crawling sensation is on the face, and immediately, you know, one, you know, will go and scratch it. A crawling sensation might occur on the face, and as a form of restlessness, the meditator will scratch. Si può manifestare una nella, una nel, nel viso una like an insect crawling, sì, una un formicolio, una sì, una qualcosa che cammina sulla faccia, e allora c'è una reazione di grattarsi, una reazione di tipo fisico, grattarsi, sì. Scratch. And so the characteristic of restlessness is disquietude of the mind. L'irrequietezza ha come caratteristica l'estrema mobilità della mente. Yes, and just like the surface of a lake can be in two states, so too the mind can be in two different states. So the surface of a lake can be very, you know, very quiet, without much movements there, ripples, in this one case, or it could be very agitated. Likewise for the mind. La mente è come un lago che può essere molto calmo, senza increspature, oppure agitato. And so the function of this mental state of restlessness is simply to create unsteadiness in the mind, to make the mind unsteady. L'irrequietezza rende la mente non stabile. And so, just for general knowledge, the mental state of tranquility will make the mind tranquil. Al contrario, la tranquillità rende la mente tranquilla. And so this restlessness manifests as turmoil in the mind. L'irrequietudine si manifesta come un terremoto, uno sconvolgimento nella mente. And so when restlessness is present in the mind, and one thinks, oh well, never mind, this is the normal state of affairs, it's always been like this, and one is not paying attention to it, then this will create more and more restlessness. L'irrequietezza ha un andamento incrementale, cioè più si è irrequieti e più si corre il rischio di essere ancora più irrequieti. And it is usually only when a meditator has experienced the opposite state of mental state, namely of tranquility, that he or she realizes that something else is possible. And then, when seeing this contrast between restlessness and tranquility, then only will the meditator get more and more interested in the tranquility and will start doing something about the restlessness. Quando il meditante ha la possibilità di mettere a confronto l'irrequietezza e la tranquillità, allora può finalmente andare verso la tranquillità. Now, the second part here of our fourth hindrance is that of kukuccha, and this sometimes also translates as vipatisara. And the translation is as worry or regret. So yeah. Worry or remorse. Allora adesso affrontiamo cucuccia, il quarto ostacolo, che possiamo tradurre come preoccupazione o rincrescimento. Regretto o rimorso. Preoccupazione o rimorso. Both possibilities are there. And so its characteristic is subsequent regret. La caratteristica successivamente è il rincrescimento, il dispiacersene. So when this kukucha arises in the stream of consciousness, then its function is to cause a state of feeling sorry for what one has done or said, for any mistakes committed. Quando emerge il cucuccio nella mente, ci sentiamo dispiaciuti per qualcosa che abbiamo fatto. And one might also feel sorry for wholesome deeds that one has missed to perform in the past. E ci dispiaciamo per aver mancato qualcosa nel passato e perché non abbiamo conseguito qualcosa di salutare che invece poteva essere. And kukucha manifests the stream of consciousness, and that's the way we experience it as meditators, namely as regret. As remorse. Kukucha si manifesta molto come rimorso. And the proximate cause for the arising of kukucha, of worry, and certain remorse is the acts of commission and omission. La causa prossima è un atto di commissione o omissione. By commission is meant unwholesome deeds that one performed in the past, and by omission is meant the wholesome deeds one missed to perform in the past. Allora la commissione, diciamo il rimorso per la commissione riguarda degli atti non salutari commessi nel passato, e il rimorso per l'omissione riguarda degli atti salutari che si sarebbero potuti fare e che invece non si sono fatti. And the way this worry and remorse occurs in the practice is that while sitting there, one remembers some event from one's own life that has taken place already long time ago, and then one feels bad about one's reaction from back then. Sono gli stati che ci occorrono quando cominciamo a ricordarci cose che sono accadute magari in un lontano passato, e a stare male ritornando indietro. This worry or remorse also causes an agitation of the mind, just like restlessness. Al pari della irrequietezza, il rimorso genera Does it cause in it causes mind? Agitation. Che causa agitazione nella mente. Now, in the case of restlessness and remorse, when it's present, we have to be mindful of it. When it's absent, we also have to be mindful of it. And we need to know, you know, the causes that lead to its arising, and we need to know, you know, the conditions that lead to the removal of restlessness and remorse. Allora, quando arrivano questi stati, dobbiamo essere consapevoli delle cause e delle possibilità di rimuovere questi stati stessi. And so, then as one factor that contributes to restlessness, namely making excessive effort, will not certainly be so beneficial for our own meditation practice, and it creates restlessness. Ci può essere qualche cosa che accresce, one factor that contributes to un fattore che contribuisce alla to the arising of restlessness, al sorgere dell'irrequietezza, is making too much effort. È quello di fare troppo sforzo. And in this case, one needs to reduce the effort. E allora, in questo caso, dobbiamo ridurre lo sforzo. Now, the mental state of restlessness will be totally uprooted from the stream of consciousness only through the attainment of arahatship, whereas remorse will be removed once and forever through the third attainment. Allora, soltanto lo stato di santità, aranship, yes, potrà rimuovere l'ostacolo della prima di questi ostacoli di cui abbiamo parlato, l'irrequietezza, mentre l'altro, il rimorso, remorse will be removed by the third path, dal terzo sentiero. Now, briefly, among the many qualities that mindfulness certainly should possess, another one is a calm and detached observation of what is going on. And so, this particular quality is helpful in the context of working with, dealing with doubt, the last hindrance of doubt. Allora, adesso stiamo affrontando l'ultimo ostacolo, che è il dubbio, che è quello che può essere rimosso da una costante attenzione. And so, this doubt is doubt from a religious point of view, doubt in the Buddha, Dhamma and Sangha, doubt in the validity of the practice, and worst of all, self-doubts. Allora, da un punto di vista religioso, il dubbio è il dubbio che riguarda il Buddha, il Dharma, il Sangha, e ancora peggio il dubbio in se stessi, riguarda se stessi. Now, the way the practice was. Sì, sono tre allora. Uno Buddha Dharma Sangha, uno riguarda la pratica e uno riguarda se stessi. Right. And the way meditators frequently experience that this doubt is should I stay or leave, or do I have the necessary skills to do this practice? or should I go and practice at some other meditation center? And then comparing, let's say, this method with a different method of Vipassana meditation. Il dubbio si esprime attraverso interrogativi del tipo: devo stare qui o me ne devo andare? Posso stare in questo centro oppure ci sarà un centro che offre qualcosa di meglio? E così via. Yes. So, involved is choosing or having to choose between two or three or even more options and an inability to make up one's mind. Diciamo, il dubbio si manifesta quando si mettono a confronto diverse opzioni e non si riesce a fare una scelta. The mind is in a state of wavering, of going back and forth between different options. La mente va avanti e indietro, oscilla tra diverse opzioni. And so this wavering of the mind is actually its function. The wavering of the mind is the function of doubt. L'oscillazione, l'altalenare della mente è la tipica funzione del dubbio. And so the way this doubt manifests is as indecisiveness, namely an inability to come to a decision. Il risultato è l'incapacità di arrivare a una decisione. And so the main cause that contributes to the arising of doubt is not paying attention to the mind that is going back and forth between different options. La causa principale è quella di non prestare attenzione alla mente che va avanti e indietro tra differenti opzioni. And when the hindrance of doubt arises, then this can be quite challenging to a meditator. And clearly, doubt then is experienced as an unwholesome mental state. Quando arriva il dubbio, può essere una sfida piuttosto estrema per il meditante, e certamente si traduce in uno stato mentale non salutare. Just like with the other hindrances, we need to apply mindfulness, which means when doubt is present, we have to know that it's present. When it's absent, we have to know that it's absent. And we need to know the conditions that lead to the arising of doubt. And we need to know the conditions that lead to the removal of doubt. Quindi al pari degli altri ostacoli, la consapevolezza deve riguardare il fatto che il dubbio è presente oppure che non è presente, deve riguardare le cause e deve riguardare le modalità attraverso cui questo ostacolo può essere rimosso. And so, doubt can be removed from the stream of consciousness once and forever through the attainment of only the first path. Il dubbio può essere rimosso una volta per tutte solo attraverso il raggiungimento del primo sentiero. Now, some meditators, but not all, owing to a certain upbringing, owing to going through a certain educational system, are very, very much used to, well, criticism and doubting statements, doubting just about everything. And that makes it somewhat difficult for the meditation practice. Now, if this is the case, then one should be aware of it, and one should work with this doubting or critical attitude as much as possible. Ci sono delle condizioni, diciamo, sociali, educative, per l'origine del dubbio in forme così sistematiche. Il fatto che noi siamo allevati, può darsi che siamo allevati in un contesto che stimola in ogni occasione il manifestarsi del dubbio. Okay. Now, maybe this much for tonight. Let me conclude by wishing may all of you possess, or may your mindfulness possess the various qualities explained yesterday as well as today, and some more will be explained in the future, and thus well equipped may you be in a position to easily or to be mindful of the different hindrances and then to easily overcome them, and may this lead you on to the arising of wholesome mental states, and eventually may it lead you to the peace of Nibbana. Quindi l'augurio è che possiate superare gli ostacoli, riconoscere gli stati mentali non salutari, sì, e procedere verso il Nirvana. Oh, yes, the peace of Nirvana. Verso la pace del Nirvana. Yeah, ok, and that's it. Okay, do you have any questions, any comments? Find out what kind of a hindrance is Schadenfreude. I don't know if I'm pronouncing it. Is what? Schadenfreude is a German word. Oh, Schadenfreude. Schadenfreude. Oh, Schadenfreude. Oh, that's an interesting one. So the literal translation of that word is taking delight in the coming to harm of another being. Allora, la traduzione letterale di Schadenfreude è avere è prendere piacere nel mettere in pericolo qualcun altro, nel danneggiare qualcun altro. Well, that's that joy or that delight that is involved is definitely not of a wholesome type. This much is sure. Il meno che possiamo dire è che non è una cosa assai salutare. It seems to me that one of the four Brahma Viharas, I don't know what the Pali word for it is, sympathetic joy, is the opposite. Of Schadenfreude, where you wish, you rejoice in the good qualities, the good fortune, and the of another person. The Pali word for this is mudita, sympathetic joy. Mm-hmm. And you rejoice in the success of another person, success, wealth, or whatever. Quindi l'idea sarebbe che questo sentimento Schadenfreude ha come suo esatto opposto, la gioia compartecipe, mudita. Jim, what you're proposing sounds correct. That's Schadenfreude is opposed to sympathetic joy. It's very widespread in our society. I mean, I have it in myself, but if you hear it on the radio and on television, if a public figure has a downfall, mm-hmm. many people take delight in seeing the downfall of that individual, and it's a terrible. È un sentimento socialmente diffuso, è la gioia, per esempio, di vedere delle figure pubbliche che cadono, qualcosa che mette in crisi qualcuno che ha una funzione pubblica. Oh, involved in this Schadenfreude seems to be also some, definitely some ill will. Yeah. No, a hidden form of ill will. C'è anche una malevolezza strisciante, nascosta in questa gioia del male altrui. And it's as discussed earlier on under ill will, this type of persecuting, or that aspect seems to be involved. So having, let's say, having suffered owing to some public figure, let's say some politician or whatnot, and then when the person falls, one takes delight in his or her downfall. Sì, quindi è effettivamente il caso, per esempio, della caduta in disgrazia di un politico che ci rende assai felici. It's like getting even with another person. È come diventare, dispari, diventare even with another person. Yeah, even too. C'è un sentimento di il contrario dell'essere equanime. Even is I know it's an expression. How do you put this? Even and uneven. It's not that. Not in a not in a direct sense, but in a figurative sense. It's like. Not equanimous, no, it's not that either. They've done you harm, and harm is done to them. Yeah, and you take delight in that. So it's getting even. Just getting, making points. Ah. You're scoring a point. Against someone else. Diciamo che si fanno punti contro qualcun altro, si segnano dei punti in un gioco ideale che stiamo giocando contro qualcun altro. And so, well, there are, like, in the case of ill will, it comes in so many different shades, and Schadenfreude would be just one of one out of those. And so, in actuality, we, Satipatthana meditators, we really need to pay attention to these details, to these different shades, and try to weaken them as much as we can. Mm-hmm. Not only during intensive retreat, but also especially outside of retreat. Come meditatori di Satipatthana dobbiamo prestare estrema attenzione a questo tipo di malevolenza, non solo durante un ritiro, ma sempre. Okay, anything else? Yes, Anna Caterina. I have a very practical question. Yes. With agitation. For me, it's very difficult to deal with this obstacle because I almost never understand the cause. I mean, I've noticed that in my case, mental agitation can come from two different causes. One, if there is too much energy, and the other case, if there is too much lack of energy, because when there is too much energy, it's obvious there is agitation. When there is lack of energy, there is not so much control of the mind, and so the mind wanders. So the fact is that in the sitting, in the very moment, I am not able to understand whether the problem is too much energy or lack of energy. So quite often I apply the wrong remedies. For example, I put much more effort and the situation doesn't get better, it gets worse, and sometimes I lose 2-3 days of a retreat just trying to put much effort, and then I discover that the problem was too much energy. So I relax and then agitation subsides. So I don't know how to recognize this. This is a very practical problem that I always have in my practice. I don't know whether the question is clear. Yeah, no, the question is very clear. You put your case very clearly. Oh, sorry. Do you want me to translate first or? No, maybe. That's a good idea. Sì. No, ho chiesto, siccome nel mio caso quando c'è agitazione in meditazione vedo che a volte perché c'è troppa energia, a volte perché ce n'è troppo poca e non sono mai capace di distinguere tra i due casi e quindi spesso applico il rimedio sbagliato e invece di migliorare peggioro. Allora pongo questa domanda, come fare a capire? Well, when you have too much energy, then the body feels somewhat highly strung, and maybe even the body seems to be vibrating a lot, sometimes even a lot. And so if you find this, then it's probably a case of too much restlessness owing to too much energy. And in this case, then take the energy back, relax. And so the other case of a lack of energy, quando c'è troppa energia, bisogna posso spenderla. Oh, usually when there's a lack of energy, it leads to sloth and torpor, and that's then easy to recognize. Yes, that's recognized very well, and then also I also think I'm able to deal quite easily with that. But the problem is that through torpor, the level of the guard decreases, and so the mind starts wandering. Yeah. Then Anna Katerina, try to pay attention to the preliminary signs. So the things, those signs or those phenomena that arise prior to the wandering mind. So maybe the mind becomes a little bit easygoing, relaxes a little bit, and maybe also what you could certainly check is how is your posture at that point? Is it really upright, still upright or not? If not, this might be already a first indicator towards slackening of effort, and then make a concerted effort to keep the sloth and torpor away. Check for your eyes. So how are your eyes feeling? Do they feel very heavy or not? And so another way way. And let's say you're sitting like this, and the two thumbs are touching. Then when they're touching, it means there's no sloth and torpor. But if you find that your two thumbs are no longer touching, then this is an indicator that maybe already sloth and torpor has set in, or it's going to set in very soon. So this is something I learned from some Burmese dhyana. It's true. It works. Very short, insomma, in brevissimo, bisogna fare attenzione a alcuni segni preliminari di ciò che mancanza di energia poi si può tradurre in torpore, e allora per esempio la pesantezza degli occhi, oppure i pollici che invece di toccarsi lentamente si staccano, e cose di questo genere. Quindi l'attenzione non al fenomeno in sé, ma ai dettagli che lo accompagnano. Maybe one more last point. Always check what you are knowing about the predominant object. Are you really knowing something or not knowing something? If you're not knowing anything about the predominant object, something is missing. Something is lacking. And so, and then check what this could be. So if you find you're lacking in effort, then try to exert more effort. Okay, maybe this much for our question and answers.